Roberta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mia moglie non faceva la cubista. Non ne ha neppure il fisico, anche se è una bellissima donna alla quale voglio bene. Ma non faceva la cubista, lavorava nel volontariato e quando si seppe che stava assieme a me fu licenziata. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa ha detto Galan di sua moglie, che non aveva il fisico e non poteva fare la cubista? Questo soprattutto in realtà, al di là insomma, di quanto possa essere contenta sua moglie di questo commento, per dire che non aveva niente a che fare con i milioni, le truffe che gli imputano i PM, l'ex governatore del Veneto, no? Deputato di Forza Italia Giancarlo Galan, nel giorno in cui deposita la sua memoria difensiva in giunta alla Camera, ha convocato una conferenza stampa e avete sentito un passaggio dove ha raccontato la sua versione dei fatti, insomma, nell'ambito dell'inchiesta del Mose. Io sottolineo il presidente della Commissione Culturale di Montecitorio che i PM di Venezia vorrebbero agli arresti, non ho colpe che mi vengono attribuite, sono tutte balle, ha detto Galan. Nella richiesta d'arresto inviata dalla Procura di Venezia al GIP lo scorso 4 giugno si legge però che ci sarebbero state cospicue operazioni commerciali nel sud-est asiatico per 50 milioni di dollari, per le quali emergerebbe la riconducibilità alla famiglia Galan. Bene, questo per spiegarvi quindi questo incipit. E si inizia anche la settimana, oltre alla puntata di questa sera, come sempre un sacco di argomenti di cui parlarvi e come sempre a vostra disposizione per intervenire sia la pagina Facebook di Effetto Notte sia gli SMS al 349-238-6666. Sapete di questa polemica accesa sull'immunità per i senatori che era stata cancellata, poi adesso sembra rientrare, come si dice, dalla finestra per questa proposta scritta dai relatori Finocchiaro e Calderoli. Però il governo dice: noi non sapevamo niente. Finocchiaro si è arrabbiata moltissimo. In ogni caso, voi siete favorevoli o no all'immunità per i nuovi senatori? Perché sapete che ci deve essere la riforma del Senato voluta in particolare da Renzi, e quindi questa cosa per molti sembra un po' incongrua. Cosa ne pensate? Adesso io intanto vi racconto un po' la giornata. Un'Unione Europea, la svolta della Merkel, la cancelliera dice sì a una certa flessibilità del patto europeo per la crescita. L'inchiesta sul Mose, scontro tra la procura e Galan, il PM dice aveva fondi all'estero, ma l'ex governatore commenta solo balle. Immunità per i senatori, la polemica va avanti, il Movimento 5 Stelle dice Renzi deve sparire, i democratici sono spaccati, il nuovo centrodestra insiste per mantenerla. La Corte cancella la condanna a morte per apostasia per Meriam in Sudan, la donna sudanese è libera e sta tornando a casa. Divorzi, secondo i dati Istat, sono raddoppiati negli ultimi 20 anni, ma hanno subito di recente un calo dovuto però alla crisi. Franceschini su Pompei dice basta serrate, i musei sono un servizio pubblico. Calcio, sconto sui diritti TV, Sky diffida la Lega, rispetti le regole, dice l'assemblea, intanto si aggiorna mercoledì. Ed è vigilia mondiale per gli azzurri, Prandelli dice ora ci vuole spirito patriottico, la tecnica viene dopo. Partiamo quindi dall'apertura della cancelliera tedesca Merkel su una certa flessibilità nell'utilizzare il patto di stabilità europeo. Pare abbia quindi vinto la linea italiana, anche i tedeschi potrebbero non opporsi. Questo dovrebbe uscire dal vertice europeo questa settimana, però tra poco cercheremo di capire quale potrebbe essere la svolta e anche le ricadute per il nostro paese. Intanto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, durante l'assemblea di Federchimica a Milano, ha detto in Italia il sabotaggio della crescita pare sistematico e va rimediato, così ha detto Squinzi. L'Italia rimane il paese del macroscopico paradosso. Abbiamo la più grande vitalità imprenditoriale e i maggiori ostacoli al fare impresa tra i paesi avanzati. Non esiste luogo al mondo che richiede 7 anni per autorizzare un negozio, 15 anni per un supermercato, 11 anni per decidere di non autorizzare un rigassificatore, rigidità sindacali fuori dal tempo, una burocrazia che sembra compiacersi nel rallentare gli investimenti e distruggere posti di lavoro. In Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico. E ora il tema delle riforme, c'è attesa per l'incontro tra Renzi e il Movimento 5 Stelle che avverrà mercoledì, con quello che ormai però è il motivo del contendere delle ultime ore, ovvero l'immunità nella riforma del Senato. Tutti negano di volerla, ma a quanto pare hanno firmato tutti per il ripristino. L'immunità parlamentare per il nuovo Senato divide le forze politiche. La polemica ruota attorno al testo firmato dai relatori Roberto Calderoli della Lega e Anna Finocchiaro del PD. Per i democratici però l'importante è portare a compimento le riforme. Ernesto Carbone. Noi l'immunità parlamentare non la volevamo, però essendo un argomento molto delicato e sensibile siamo disposti sicuramente a discuterne. Dopodiché che non sia questa l'occasione per bloccare o peggio rallentare la riforma del Senato che ormai è addirittura d'arrivo. Ma il Movimento 5 Stelle punta il dito contro l'immunità, mentre Beppe Grillo incontra a Roma i suoi. Così Carlo Sibilia. Noi siamo sempre stati critici sulla questione dell'immunità, che vediamo come un privilegio sostanzialmente. Poi immaginiamo se la riforma del Senato dovesse andare in porto, ci sarebbe anche il rischio che magari il sindaco potrebbe essere posizionato come senatore e avremmo praticamente un commissario invece di un sindaco, perché sostanzialmente non è sindacabile la sua opera. Tutti i gruppi però, dal PD al Movimento 5 Stelle e dalla Lega Forza Italia, avevano presentato emendamenti per ripristinare l'immunità parlamentare per i senatori e mercoledì è previsto l'incontro tra governo e grillini per parlare di riforme a partire dalla legge elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Cominciamo con una buona notizia che arriva dal Sudan. Sta tornando a casa Meriam, vi ricordate la donna che era stata condannata a morte per aver sposato un uomo di religione cristiana. La sua storia aveva suscitato una grande partecipazione e commozione. Per lei in tanti in tutto il mondo si erano mobilitati, da capi di Stato e di governo alla gente comune. Ora Meriam, la 27enne sudanese condannata a morte e costretta a partorire in carcere, è stata finalmente liberata per decisione della Corte d'Appello. Un tribunale l'aveva condannata a morte per impiccagione, all'epoca era incinta di 8 mesi, con l'accusa di apostasia. I giudici inoltre avevano stabilito che subisse 100 frustate per aver commesso adulterio. Il suo matrimonio con un cristiano infatti non è considerato valido in base alla Sharia. Madre di un bimbo di quasi 2 anni, durante la carcerazione, il 27 maggio, Meriam aveva partorito la piccola Maya. Qualche giorno fa, la Commissione Nazionale per i Diritti Umani Sudanese aveva definito la sua condanna in contrasto con la Costituzione, che prevede la libertà di culto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie decisamente negative arrivano invece dall'Iraq, dove ormai si parla di esecuzioni di massa e oggi nel paese è arrivato il segretario di Stato americano Kerry. I miliziani dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante continuano ad avanzare in Iraq ed è un'avanzata violenta. Centinaia di soldati sono stati decapitati e impiccati a Saladin, Ninive, Dilaya, Kirkuk, lo riferisce Qassem Atta, portavoce per gli affari di sicurezza del premier iracheno Nuri al-Maliki. Lo stesso premier che oggi ha incontrato per un vertice a porte chiuse per più di 90 minuti il segretario di Stato americano John Kerry. No country is safe. Kerry ha riferito che il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è preoccupato per la sicurezza e il caos politico. Tuttavia, la preoccupazione principale è per il popolo iracheno, ha detto, per l'integrità del paese, dei suoi confini, della sua sovranità. Ormai il fronte estremista sunnita controlla gran parte della frontiera occidentale con la Siria e la Giordania e minaccia di lasciare al buio ampie zone del paese. I guerriglieri stanno infatti tentando di prendere il controllo della diga di Adita sul fiume Eufrate, che alimenta la seconda centrale idroelettrica del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo adesso alle notizie italiane. Dicevamo, si difende l'ex governatore del Veneto e deputato di Forza Italia Galan. La Camera dovrà decidere a questo punto sulla richiesta d'arresto per la vicenda Mose. Contro di me sono state dette delle fesserie colossali. Davanti a giornalisti e telecamere, Giancarlo Galan respinge le accuse che gli sono piovute addosso nell'inchiesta sul Mose. Alla stampa, oggi l'ex governatore veneto ha illustrato i contenuti della memoria difensiva consegnata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Venezia. Avrei preferito parlare prima con i giudici, ma non hanno voluto ascoltarmi, ha spiegato polemico il deputato di Forza Italia. Sono stato investito da un ciclone umano, giudiziario, mediatico, quale non mi sarei mai aspettato di incontrare. Non esiste neppure neppure una prova che io abbia ricevuto denaro dai soggetti che mi accusano. Oltre al presunto stipendio in nero da 1 milione di euro all'anno, dalle carte dell'inchiesta emergono però nuovi particolari su Galan. Si parla anche di operazioni commerciali nel sud-est asiatico per un valore di 50 milioni di dollari, compravendite di società, soprattutto in Indonesia, avvenute alla luce analizzando documenti trovati in possesso del suo commercialista, Paolo Venuti, anche lui indagato e ritenuto dagli inquirenti un prestanome della famiglia Galan. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci adesso della più importante operazione antimafia degli ultimi anni, quella scattata all'alba di oggi nella periferia nord di Palermo. 95 provvedimenti contro capi e gregari delle storiche famiglie di Cosa Nostra. Dal suo profilo Facebook, lo storico boss Gregorio Palazzotto, ora in carcere, insulta i pentiti e dice: non ho paura delle manette, ma di chi per aprirle si mette a cantare. Allora sentiamo il procuratore capo di Palermo Messineo. Purtroppo è una mafia che rinasce dalle sue ceneri. Più volte abbiamo ritenuto, abbiamo ipotizzato che le operazioni compiute avessero completamente eliminato il pericolo mafioso dal territorio, ma non ci facevamo illusioni. E questa operazione conferma ancora una volta che la mafia ha una forte capacità di rigenerazione. I capi arrestati vengono sostituiti, anche se la qualità dei sostituti è largamente inferiore a quella dei capi originari, cioè c'è in corso un decadimento qualitativo della mafia dal quale ci auguriamo un indebolimento ed uno scadimento della pressione mafiosa. E ora una notizia che riguarda la Fiat. I 500 trasferimenti da Mirafiore alla Maserati di Grugliasco ci saranno, lo ha assicurato Sergio Marchionne, amministratore delegato, che a sorpresa questa mattina si è presentato allo stabilimento del Tridente e ha tenuto una lunga riunione con i lavoratori. Marchionne si è trattenuto per oltre un'ora e poi ha dato il via libera alla prosecuzione dell'impegno a partire dal 1 settembre. I trasferimenti erano stati sospesi nei giorni scorsi a causa dello scontro con i sindacati sul contratto. C'è anche un altro tema oggi che riguarda i divorzi. Seppure sia raddoppiati negli ultimi anni in Italia, ultimamente hanno conosciuto un calo, ma la colpa è della crisi e pare confermarsi il limite anche del 7° anno. Ma di questo parleremo poi nel corso della puntata questa sera col presidente dei matrimonialisti italiani. Passiamo invece a Pompei. Dopo la vicenda dello sciopero dei custodi interviene il ministro dei beni culturali Franceschini e dice: basta a serrate nei musei italiani. Linea dura contro gli scioperi selvaggi, contro iniziative che ledono l'immagine dell'Italia nel mondo. Per il ministro dei beni culturali Franceschini nel futuro si dovrà voltare pagina, perché musei e siti archeologici devono essere considerati servizi pubblici essenziali come i treni e gli aerei, con la possibilità in casi eccezionali di precettare il personale per scongiurare le chiusure. Del resto non è stata una bella fotografia quella dei turisti venuti dall'altro capo del mondo e costretti a file di ore sotto al sole davanti ai cancelli degli scavi. I sindacati per ora hanno sospeso le loro agitazioni mentre partirà una trattativa. Al centro delle rivendicazioni la riorganizzazione del lavoro e la richiesta di incentivi. Sindacati che anche questa mattina avevano bloccato gli ingressi degli scavi per un'assemblea durata oltre 2 ore e che è stata tra l'altro sospesa poco prima della conferenza stampa con cui è stata annunciata la riapertura agli spettacoli del Teatro Grande, rimasto inagibile per 4 anni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In chiusura il calcio, ma prima, per quanto riguarda l'aspetto della battaglia sui diritti TV, Sky e Mediaset sono ai ferri corti sul tema. L'assemblea della Lega Calcio riunitasi oggi ha deciso di riaggiornarsi a mercoledì, il giorno dopo scade il termine. Avvocati, diffide, carte bollate. Diventa sempre più intricata la gara per l'assegnazione dei diritti TV per il campionato di calcio 2015-2018 a causa della bagarre scoppiata tra Sky e Mediaset. La partita principale si gioca sull'aggiudicazione delle 8 principali squadre della Serie A, tra cui Juve, Milan e Inter. Il colosso di Rupert Murdoch ha offerto di più e rivendica l'assegnazione dei match sia su satellite sia sul digitale, lasciando al gruppo di Cologno Monzese, che si è già impossessato di tutta la Champions League, le altre 12 partite. Ma per massimizzare i ricavi, pari a oltre 1 miliardo di euro, la Lega Calcio potrebbe decidere di spacchettare le piattaforme, a Mediaset il satellite e a Sky il digitale. Il dossier è già in mano agli avvocati. Sky ha diffidato la Lega, in sostanza a scegliere l'opzione cara Mediaset, la quale a sua volta ha diffidato la Lega a scegliere l'ipotesi Sky. Insomma, un bel grattacapo. Livia Zancanier, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio in chiusura di questo primo blocco, viaggio giorno anche sui mondiali, poi parleremo dell'Italia alla vigilia con Prandelli che dice ci vuole spirito patriottico domani con l'Uruguay, però intanto l'Olanda ha battuto il Cile 2-0 e la Spagna, un po' purtroppo fuori tempo, ha sconfitto l'Australia 3-0 in una partita della terza e ultima giornata, ma già tutte e due le squadre erano state eliminate dal torneo, cioè, hanno fatto un allenamento diciamo così. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi ci sono per voi sempre i due canali e la pagina Facebook di Effetto Note oppure gli sms al 349-238-6666 per dire se siete favorevoli o meno all'immunità per i senatori di quello che sarà il nuovo Senato. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo adesso brevemente le notizie tra poco. Intanto volevo dare un'occhiata ai vostri messaggi sulla questione dell'immunità, ne stanno arrivando diversi. Per esempio dice Franco: io sono contrario e mi chiedo, ma se al governo ci fosse stato Berlusconi come avrebbe reagito la stampa? Renzi ha la stampa troppo a favore, secondo Franco. Poi leggerò gli altri. Intanto però vi ricordo quali sono state le notizie principali di questa giornata. La svolta della Merkel, la cancelliera, dice sì all'uso di una certa flessibilità del patto europeo per la crescita. E poi l'inchiesta sul Mose con lo scontro tra la procura e Galan. Il PM dice aveva fondi all'estero, ma l'ex governatore del Veneto commenta sono solo balle. Poi la questione dell'immunità per i senatori che vi ho appena ricordato. In Sudan una buona notizia, la corte cancella la condanna a morte per apostasia per Meriam, è libera e sta tornando a casa. I dati dell'Istat sui divorzi sono raddoppiati negli ultimi 20 anni, ma hanno subito per colpa della crisi di recente un calo. Franceschini su Pompei interviene, dice basta con le serrate, i musei sono un servizio pubblico. E poi siamo alla vigilia dei mondiali per gli azzurri, poi ci collegheremo direttamente col Brasile. Ora invece parliamo di questa svolta, potrebbe essere la tanto attesa svolta della politica economica europea, quella che è trapelata oggi con questa apertura della cancelliera tedesca Merkel sull'utilizzo flessibile del patto di stabilità in Unione Europea. Però chiediamo lumi e interpretazione anche di questa apertura, di questo ammorbidimento della cancelliera Merkel, che è un po' l'emblema del rigore in Europa, il rigore teutonico. Ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori. Bentornato Alberto. Quindi che cosa significa flessibilità nell'utilizzo del patto di stabilità europeo? Ma diciamo la verità che la cosa più importante è un'apertura di tipo politico-diplomatico, come sempre avviene in questi frangenti della costruzione dell'Europa della politica economica. Insomma la Merkel per la prima volta l'ha detto, ha cominciato a dire che bisogna, si può, è disponibile ad applicare delle forme di flessibilità all'attuazione del patto di stabilità interno all'Europa, che però va mantenuto e va osservato, perché se i patti non si rispettano si perde la credibilità. Quindi sostanzialmente da una parte è aperto, ma dall'altra ha continuato a riproporre il suo mantra, diciamo così. Quindi non è che propone di cambiare le regole del patto di stabilità, è onor del vero, il patto di stabilità contiene forme di flessibilizzazione che si chiamano per esempio fattori rilevanti, cioè se un paese è in grado di dimostrare che ha in atto alcuni fattori rilevanti, per dire le riforme. Quindi non la crisi, ma le riforme. C'è un riequilibratore anche dovuto all'andamento del ciclo economico, ma quello vale per tutti. Invece i paesi che riescono a entrare nell'analisi di questi fattori rilevanti, come siamo stati noi per esempio con la riforma Fornero, pensioni, che ci è valsa mezzo punto di deficit in più, sostanzialmente ci hanno abbonato lo 0,5% l'anno scorso. E ecco, questa cosa già esiste, probabilmente la Merkel fa riferimento a questo tipo di meccanismi, però il fatto che lo dica con una certa enfasi nel momento in cui ci sono le nuove nomine della nuova configurazione della governance europea, si avvia la gestione del semestre di presidenza italiano, sono aperture molto importanti che sicuramente sono un buon viatico per la gestione della presidenza italiana del semestre europeo. Ma questo quindi, secondo quanto ha detto anche il governo Renzi, è una vittoria effettivamente del governo italiano, è invece una richiesta corale di vari paesi d'Europa? A questo punto non si poteva fare altrimenti? Com'è? No, indubbiamente è una vittoria diplomatica dell'offensiva politica che ha fatto la sponda sud dell'Europa, la parte più mediterranea, diciamo così, e più socialista. Chiedo scusa, però È anche vero che il rigore teutonico, come giustamente l'hai definito prima, e il talebanismo del rigore non portava vantaggi alla lunga nemmeno alla Germania, perché si è resa conto che strozzare i paesi di approdo del proprio export, come siamo noi, come la Francia, come la Spagna, non aveva alcun senso, perché cominciavano a creargli un problema di bilancia commerciale interno. Cioè, la Germania non può pensare di agire da sola, sta in un contesto europeo che è un mercato unificato, che ha degli intrecci, domanda e offerta, e degli scambi tra paesi. E indubbiamente l'insistere troppo sul rigore e strozzare le politiche economiche dei paesi più indeboliti alla fine creava, oltre a una devastante crisi di domanda interna, anche una crisi di domanda di beni prodotti dalla Germania destinati alle loro esportazioni. Quindi una cosa, effettivamente il rigore, il talebanismo del rigore aveva dato un colpo di coda anche ai suoi più forti sostenitori. Tutto questo, tra l'altro, Alberto, ha pochi giorni dal vertice che ci sarà, no? Dei vertici, certo, dell'Unione Europea. Giovedì c'è un vertice molto importante, perché si cominciano a sciogliere un pochettino i nodi sulle nomine per la nuova governance della nuova Europa, diciamo così, dopo le elezioni europee. E effettivamente oggi sta girando il nome di Mogherini come Mrs. Pesk, cioè la nuova ministra degli esteri dell'Unione Europea. Fino adesso prendere il posto di Catherine Ashton. Ahimè, non ha gran figurato, a onor del vero, e quindi è auspicabile che effettivamente, qualora quel ruolo finisse a un candidato italiano, diventasse più importante riempirlo anche di contenuti, effettivamente, perché l'Europa con la propria politica estera non era mai diciamo uno dei primi attori negli scenari delle grandi crisi internazionali, laddove la geopolitica conta, insomma. Alberto Orioli, tu pensi che quindi questa apertura della cancelliera Merkel e un possibile cambiamento che sia condiviso nell'Unione Europea possa portare dei vantaggi piuttosto consistenti e anche vicini per il nostro paese? Sì, diciamo, direi proprio di sì. Non tanto e non solo l'apertura della Merkel, che ripeto è una cosa molto tattica e molto da ascrivere alla situazione diplomatica e politica del momento, ma quanto piuttosto in questa eredità, in questo piano che Van Rompuy sta scrivendo e che vuole affidare ai paesi membri dell'Europa, insomma. E lì si parla esplicitamente di scorporo degli investimenti pubblici dal computo finale del deficit, che è una vecchia proposta italiana fin dal governo Monti, Letta, ricorderanno gli ascoltatori. Insomma, è una cosa su cui l'Italia ha insistito tante volte, perché effettivamente costringere i paesi che sono già in difficoltà nel rientro di deficit e debito anche a dover computare le spese più virtuose, che sono quelle in conto capitale, quelli negli investimenti che aumentano la modernizzazione dei paesi e creano lo sviluppo, fanno girare l'economia, insomma, è davvero una crudeltà. E questa cosa sembra ormai acquisita. Il piano di politica economica di Van Rompuy parla esplicitamente di questo, e anzi dice che bisogna agire in modo molto incisivo per la creazione, appunto, di nuovi investimenti pubblici e soprattutto di nuova occupazione. Quindi sta emergendo un'altra idea di Europa che va ben oltre quella cartolare, rigorista, che era un po' poi il portato di una concezione della moneta che era molto, molto affidata ai numeri e poco alle persone, diciamo. Vediamo se questo passaggio davvero porterà dei risultati concreti, così ci ha spiegato in realtà Alberto Orioli. Buon lavoro, Alberto. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Alberto. Adesso stavo guardando i vostri messaggi, perché tra poco parleremo del tema dell'immunità per i senatori, che tanto sta facendo discutere, soprattutto tra PD e Movimento 5 Stelle, ma non solo. E poi parleremo anche, ci collegheremo col Brasile per vivere un po' l'atmosfera di questa vigilia della partita di domani dell'Italia con l'Uruguay. E parleremo anche dei divorzi e del dove anche avviene in modo più economico e più rapido, perché si può effettivamente dall'Italia andare a separarsi, a divorziare in altri paesi che sono più economici e hanno anche tempi molto più veloci. Sapete che da tempo da noi si discute in Parlamento di proposte per rendere il cosiddetto divorzio breve, però ancora non si è arrivata una legge. Dopo approfondiremo questo argomento. Leggevo appunto un altro messaggio, quello di Alessandra da Milano. Dice: l'immunità parlamentare è in Costituzione e c'è da sempre. Tra parentesi dice: ma che informazione fate? In che senso? Stiamo dicendo qual è, sto dicendo attimo qual è la realtà in questo momento, qual è la polemica in atto, e poi capiremo insomma quali sono le diverse opinioni su questo argomento. Ma non capisco questa domanda di Alessandra. Poi Mario da Savona: l'immunità è fondamentale per proteggere i politici da querelle, per diffamazione e citazione con richiesta danni. E così altri vostri messaggi, però prendiamoci questa pausa di riflessione, così potete continuare a scrivere al 349-238-6666 i vostri messaggi, oppure commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E eccomi, Roberta Giordano, sempre con voi fino alle 22, come sempre, o poco prima, quindi restate in ascolto, perché fra le altre cose adesso parleremo appunto del tema dell'immunità, che sta facendo molto discutere e potrebbe creare anche un intoppo nel percorso delle riforme. Si stanno stringendo i tempi, mercoledì Renzi, o comunque il PD, una delegazione del PD dovrebbe vedere una delegazione del Movimento 5 Stelle, si definiscono gli ultimi passaggi anche degli accordi con Berlusconi, con Forza Italia, però adesso c'è questa storia dell'immunità e non si è capito bene chi la volesse, chi non la volesse, si rimpalla, c'è tutto uno scaricabarile che ha fatto per esempio arrabbiare moltissimo una dei due relatori, che è Anna Finocchiaro del PD insieme a Calderoli della Lega, che ha detto: sono disgustata di questa cosa, è vergognosa, era condivisa questa scelta, e poi adesso la colpa è soltanto nostra. Comunque vi ricordo prima le notizie principali, voi continuate a scrivere i vostri messaggi su questo argomento, gli sms al 349-238-6666 e anche a commentarlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco leggerò alcuni dei messaggi, ma intanto vado a riprendere le notizie. La svolta della Merkel e Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo: sì a più flessibilità per il patto di stabilità. Ci sarà in un documento presentato al vertice che ci sarà giovedì. In cambio però chiedono delle riforme. Intanto Roma spinge per la crescita. Scontro tra Galan e la procura sul Mose: i PM dicono aveva fondi all'estero, mentre il deputato di Forza Italia dice sono solo balle. I magistrati invece gli imputano 50 milioni di dollari all'estero. Alta tensione sul tema dell'immunità. Movimento 5 Stelle a Renzi dice deve sparire, intanto i democratici sono spaccati, mentre il nuovo centrodestra dice che è una garanzia che deve rimanere questa dell'immunità. Una specie di apocalisse sulla mafia: a Palermo arrestati 91 boss e dopo 100 anni tra l'altro è stato scoperto l'assassino di Joe Petrosino. Da un'intercettazione è stata fatta luce sull'uccisione del poliziotto italo-americano nel 1909, fu un prozio di uno degli arrestati a farlo fuori. Poi c'è lo scontro sui diritti TV e la Sky diffida la Lega Calcio, e poi Prandelli e Pirlo caricano gli azzurri per domani, dicono sarà come una finale. Dunque parliamo allora di questa vicenda dell'immunità per quanto riguarda i nuovi senatori. Ha parlato moltissimo dall'inizio, ancora prima che si insediasse come Presidente del Consiglio Renzi, del fatto che il Senato doveva cambiare, a parte la legge elettorale, ma un'altra grande riforma doveva essere questa del Senato, formato non più elettivo ma formato da sindaci di città italiane e da consiglieri regionali, circa una ventina di sindaci italiani, da 74 consiglieri regionali e poi da 5 persone di nomina presidenziale, insomma quindi un centinaio i nuovi senatori senza stipendio. E però improvvisamente salta fuori, nonostante tutte le novità che devono riguardare questo nuovo Senato, l'immunità. Allora io saluto Stefano Ceccanti, professor Ceccanti, buonasera. Buonasera. Docente di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, nonché ex senatore del PD. Lei che impressione ha avuto da questa polemica che sta appunto un po' spaccando il PD con Forza Italia, che dice noi non c'entriamo nulla, non è vero che c'è stato un accordo segreto con noi, anzi siamo contrari visto che il Senato non sarà elettivo. Calderoli, che è stato uno dei relatori della Lega, che dice anzi noi siamo pronti, se proprio volete, se proprio non vi piace, a levarle l'immunità anche alla Camera. Insomma, un gran pasticcio sembra. Già del Senato non si capisce bene come deve essere composto, un giorno si dice che sarà la francese, un altro giorno alla tedesca. Che dice professor Ceccanti? Dunque andiamo per ordine. Ecco. Allora, per quanto riguarda la composizione, il testo attuale è molto più coerente di quello iniziale. Il Senato serve a sgonfiare il conflitto tra Stato e Regioni alla Corte Costituzionale. Per conseguire questo obiettivo bisogna che il Senato sia rappresentativo soprattutto di chi fa leggi a livello regionale, i consigli regionali. le alte presenze, i senatori a vita e i sindaci devono essere marginali. Quindi siamo passati ora a una composizione largamente regionale e questo è coerente, questo dal punto di vista della composizione. Sì. Dal punto di vista dell'immunità mi sembra che ci sia un po' di confusione, anzitutto per un motivo: nessuno sta proponendo di tornare all'immunità ampia prevista prima del 93. Prima del 93, lo ricordo a tutti, per fare un'inchiesta qualsiasi su un parlamentare bisognava chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza. Questa cosa è stata tolta e quindi noi di questo non stiamo parlando. In sostanza noi stiamo parlando di una specifica immunità, quella per gli arresti, cioè quando un magistrato chiede l'arresto per un parlamentare, oggi come oggi, sia la Camera sia il Senato deve votare la Camera di appartenenza. Ora, questo sistema è già criticato per varie ragioni, si critica principalmente perché spesso può capitare che la decisione sui parlamentari avvenga per motivi politici, essenzialmente politici, non relativi alla possibilità di un intervento persecutorio di un magistrato. Ci ricordiamo tutti che nella scorsa legislatura, a poche settimane di distanza, ci fu l'onorevole Milanese per la quale la proposta di carcerazione fu respinta e l'onorevole Papa per cui fu accolta. E capitò che la Lega in un caso per ragioni politiche si schierò contro e l'altra a favore, ma per ragioni rigorosamente politiche. Quindi questo sistema è criticato sia per la Camera che per il Senato. In una prima stesura il governo aveva proposto di toglierlo del tutto ai senatori e quindi mantenerlo solo per i deputati, perché i deputati hanno un ruolo diverso, danno la fiducia al governo, i senatori no. Quindi c'è una differenza di funzioni e il governo aveva fatto questa scelta. Però sono comunque due Camere, tutte e due, che votano una revisione costituzionale, partecipano all'elezione del Capo dello Stato. Il Senato, se raggiunge la maggioranza assoluta, può bocciare le leggi della Camera, quindi non è detto che questa soluzione sia la migliore, quella di togliere per il Senato e tenerla per la Camera. A questo punto c'è stata una proposta numero due, rimettiamola anche al Senato e restituiamo questa parità di status ai componenti della Camera e del Senato. Volendo c'è anche una soluzione tre, cioè si può cambiare per la Camera e il Senato e affidare questo compito non più al Parlamento ma alla Corte Costituzionale. Anche se dal PD o mi pare dal governo ha detto non carichiamo troppo la Corte Costituzionale di altre cose oltre ai suoi compiti. Allora, noi dobbiamo tenere presente che le richieste di arresto per i parlamentari sono circa una decina per legislatura, due all'anno. Quindi tutto questo carico di lavoro in realtà non ci sarebbe. Per di più, se noi togliamo il conflitto Stato-Regioni, grazie a questa riforma che occupa metà del tempo della Corte, la soluzione a me sembrerebbe ragionevole, cioè non c'è nessun aggravio, superiamo il problema oggi, perché l'altro modo di superarlo, cioè quando la magistratura arresta direttamente i parlamentari senza un filtro, crea un obiettivo scudibile a favore del potere giudiziario. Cioè se vengono arrestati 4 o 5 senatori e magari il Senato si appresta a votare una legge che voleva della maggioranza di governo che voleva bocciare la maggioranza assoluta e non ci riesce, che si fa? Cioè un minimo di criterio di garanzia alla cerniera del giudiziario del politico, se non va dato direttamente all'assemblea parlamentare, va dato alla Corte. Professor Ceccanti, però se è tutto così ragionevole, perché adesso tutti si vergognano di dire sì, la vogliamo questa immunità? Sarà perché, per esempio, scrive Angela sulla pagina Facebook di Effetto Notte, la previsione di questo istituto è esattamente il contrario di ciò che è il sentire comune dei cittadini italiani, è il segno che i promotori di questa riforma non rappresentano l'interesse comune e diffuso del popolo italiano. Guardi, io sentire comune in termini di garanzie costituzionali ci andrei molto piano, che se noi interpretassimo il sentire comune dopo un efferato omicidio dovremmo varare la pena di morte e forse anche la tortura, quindi io eviterei il sentire comune. Cioè, il nostro problema è questo: noi abbiamo giustamente una magistratura molto indipendente e molto autonoma e questo va bene, però come si fa? Qui c'è un problema di equilibrio e separazione dei poteri. Se noi stabiliamo che un qualsiasi magistrato può arrestare parlamentari senza nessun filtro, cambiamo la composizione delle Camere. Cioè, no, non è pensabile che ci sia una sorta di automatismo che va dal potere giudiziario al Parlamento e basta. Però, professore, non è strano poi un po' incongruente che ci siano dei sindaci e dei consiglieri regionali, visto che loro comporranno questo nuovo Senato, che abbiano l'immunità? No? No, ma il problema è questo. Cioè, i consiglieri regionali stanno lì perché la riforma del Senato serve a risolvere il problema del conflitto Stato-Regione del titolo V. Questo è il punto. Ma nel momento in cui loro vanno in quella camera sono dei senatori. E quindi, cioè, come si fa a dire che in quella camera non hanno tutela e quindi c'è una qualsiasi possibile azione del potere giudiziario a cui la struttura parlamentare non può replicare? No, no, è chiaro, però allora le ripeto solo la domanda che avevo fatto dal suo punto di vista, professor Ceccanti, cosa ne pensa? Il PD si tira un po' indietro, dice noi non lo sapevamo, il governo nella persona della ministra Boschi ha detto noi non lo sapevamo, non è una cosa così importante, staremo vedendo. Non possiamo accantonare tutte e due le cose, la soluzione 1, togliere i senatori, la soluzione numero 2, rimettere i senatori e varare la soluzione 3. Per deputati e per senatori decide la Corte Costituzionale, a me sembrerebbe una soluzione razionale. Quindi questa è la sua proposta? Questa è la sua proposta. A me sembrerebbe ragionevole. Benissimo. Quindi vediamo se può essere accolta effettivamente in modo che nessuno si vergogni, nessuno rimpalli all'altro, non ci sia uno scaricabarile e vediamo se può essere questa una soluzione. Ci aggiorniamo allora su questo caso, professor Ceccanti, la ringrazio. Bene. Grazie. Grazie, buon lavoro. Ora invece cambiamo completamente argomento, diciamo un minimo di filo conduttore c'è tra chi litiga, lì abbiamo sempre sentito parlare insomma di litigi politici e di chi dice no è colpa tua, è colpa mia eccetera, adesso parliamo di divorzi in qualche modo, insomma diciamo c'è di base, no, questo non andare d'accordo, ma con i dati dell'Istat, secondo i quali i divorzi sono raddoppiati in Italia negli ultimi 20 anni, però negli ultimissimi tempi, dal 2012 in particolare, sono calati per la prima volta le separazioni, diminuiscono del meno 0,6%, mentre i divorzi già da qualche anno stanno registrando un calo, il meno 5,8% in 3 anni, però pare che questo sia dovuto non al fatto che le coppie vadano più d'accordo, abbiamo trovato la ricetta per una armonia tra loro, ma perché la crisi pesa anche poi sui divorzi, sulle separazioni, pare che vivere poi da singolo una volta che si era sposati costi molto di più e poi tutti i problemi inerenti, insomma non solo le pratiche di separazione e divorzio ma molte altre cose. C'è per parlarne in collegamento Gian Ettore Gassani. Dottore, buonasera. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi. Presidente dei matrimonialisti italiani, nonché presidente nazionale fondatore dell'AMI, l'associazione avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia. Come commenta questi dati, professor Gassani? Quindi la crisi non è tanto più la crisi economica, in qualche modo contiene la crisi della coppia, anzi l'acuisce, ma nel senso poi le coppie devono stare insieme per forza per non spendere di più? La crisi del settimo anno è ritornata negli ultimi anni, indubbiamente soprattutto le giovani coppie cominciano ad avvertire il peso della crisi. Sono due dati da leggere. Il primo è che si sente praticamente quasi subito e il secondo di coppie che preferiscono vivere da separati in casa pur di non affrontare la povertà che inevitabilmente una separazione e un divorzio determinano. Qui abbiamo due Italie, cioè l'Italia di chi non riesce a sopportare assolutamente il pensiero di vivere con una persona che non ama più e c'è un'Italia che è costretta a stringere i denti e in qualche modo a rifiutare l'esercizio di alcuni diritti pur di non rimanere praticamente senza risorse economiche. Resta il fatto però che molti divorzi nel nostro paese non sono censiti perché avvengono all'estero, ecco. E quei dati che vengono diramati dall'Istat sono corretti ma non sono completi. Per cui abbiamo migliaia di coppie che vanno a divorziare all'estero, quindi l'Istat non ha la possibilità di censire questi casi, perché di solito come succede? Sono gli avvocati che devono sottoscrivere la scheda Istat quando iscrivono al ruolo una causa, quindi l'Istat è facile poi raccogliere tutti i dati. Nel momento in cui due cittadini italiani, due coniugi vanno a divorziare in Spagna piuttosto che in Romania, che cosa succede? Quindi non abbiamo questi dati. Poi c'è un altro dato da considerare, ci si sposa molto meno, quindi essendoci meno matrimoni ovviamente ci sono meno divorzi e meno separazioni, perché non ci sei separazione se non ci siamo un matrimonio. Per cui un altro dato molto importante, perché non dimentichiamo che negli ultimi 40 anni praticamente si è dimezzato il numero dei matrimoni, dai 430.000 del 1974 si è passati ai poco più dei 200.000 del 2012, quindi abbiamo anche meno matrimoni, quindi è evidente meno separazioni. Poi dicevo giustamente, c'è una questione appunto economica, finanzia le spese legali, la necessità poi di reperire una seconda abitazione, il raddoppio di tutte le spese domestiche, tutto questo offre un quadro chiaro, ma che va letto però seguendo vari indici, quindi minori matrimoni, divorzi che si fanno all'estero, povertà di molte deboli del paese, in cui la media sta diventando sempre più povera, è evidente che tutto questo poi ha determinato un decremento delle separazioni. Dottor Gassani, mentre le raccomando di stare il più fermo possibile, ogni tanto quello che lei dice di molto interessante va e viene, deve dipendere dal telefonino. No, Monte Mario è una realtà di Roma complessa. Sì, ci sono un po' di interferenze. Quindi, dottor Gassani, diceva un dato interessante, appunto, lei diceva che molti divorzi e separazioni sfuggono ai dati dell'Istat, alla rilevazione dell'Istat, perché avvengono all'estero. Quindi, prima cosa, è possibile quindi farlo? Diciamo, è riconosciuto anche dalla giurisprudenza italiana il fatto che si divorzi all'estero. Già questo è un dato. Dalle convenzioni internazionali, quindi anche dall'Italia, è assolutamente lecito, possibile, addirittura a volte conveniente andare a licenziare. Mentre noi discutiamo, forse breve, che ancora legge, perché il Senato ancora si deve pronunciare, chiaramente gli italiani sono stanchi della nostra pazzia, dove prima separarsi, quindi prima parcella e dare il primo incarico all'avvocato, poi finita la separazione, altra via crucis di un divorzio, poi non sempre le separazioni e i divorzi sono consensuali, si trova d'accordo, a volte si tratta della guerra dei rossi, traducendola in italiano, di guerre infinite con vari gradi di giudizio in appello e poi in Cassazione, non c'è la cultura della mediazione, poi gli italiani sono particolarmente bellicosi, quindi quando c'è una separazione o un divorzio, la guerra fuori le armi, ecco, ma anche responsabilità qualche volta degli avvocati, di un sistema particolarmente pesante, quindi la gente va all'estero, praticamente immaginate che in Romania sono sorte, e tutti possono verificarlo attraverso internet, delle agenzie che si occupano proprio dei divorzi lampo degli italiani a Bucarest. Bene, queste agenzie con 3.600 euro garantiscono tutto compreso, cioè si paga il viaggio andata e ritorno, si pagano le spese legali, che sono poca roba in Romania, le spese di soggiorno, le varie tasse, addirittura l'interprete, quindi ormai si stanno facendo affari con italiani che vanno a divorziare all'estero sfruttando la pesantezza della nostra burocrazia giudiziaria. Credo che l'Italia debba correre ai ripari, perché innanzitutto non è dignitoso per la culla del diritto mondiale quale l'Italia vedere questo turismo divorzile, questa transumanza di italiani che va all'estero per chiedere giustizia. E in secondo luogo, obiettivamente, non è possibile pensare che per dire sì nel nostro paese occorrono due secondi e per dire no ci vogliono tanti anni. Credo che bisogna trovare sicuramente, semplificare le procedure anche nel nostro paese. Grazie dottor Gassani, la ringrazio di questo quadro. Grazie, un po' sconfortante per certi versi, però effettivamente interessante. Quanti avrebbero pensato che si va in Romania in numero così consistente, no, per divorziare? Poi avremo modo di ritornare su questo argomento, perché vediamo se procede intanto la legge italiana. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che ricordo molto brevemente, le principali di oggi, con in primo piano questa svolta per quanto riguarda l'economia, la politica europea, perché la cancelliera Merkel ha detto sì a più flessibilità per quanto riguarda il patto di stabilità. Questo sarà contenuto in un documento che sarà presentato al vertice dei capi di Stato e di Governo giovedì. Scontro sul caso Mose tra il Galan e la Procura. I PM dicono aveva fondi all'estero, mentre il deputato di Forza Italia, ex governatore del Veneto, dice solo balle, mentre il magistrato gli imputano 50 milioni di dollari con prestanome. E poi una grandissima operazione, la più grande degli ultimi anni contro la mafia. A Palermo arrestati 91 boss, e per i mondiali tra poco ci collegheremo direttamente con il Brasile per capire come si vive questo momento, questa vigilia della partita con l'Uruguay. Intanto in Iraq è orrore, i kedaisti stanno portando avanti esecuzioni di massa per i soldati iracheni. We'll be right back. Parliamo di Europa invece adesso, è il nostro spazio dedicato all'Europa, e parliamo di Pompei, di questa vita travagliata di Pompei. 500.000 euro su 105 milioni, questo è quanto viene utilizzato finora dall'Italia dei fondi stanziati dall'Unione Europea per Pompei, una goccia nel mare. Se questi soldi non vengono spesi entro il 2015 rischiano di andare sprecati. Intanto Pompei oggi è il giorno in cui le agitazioni sindacali sono state sospese e il sito è tornato nuovamente accessibile da parte dei turisti, mentre è stata annunciata l'imminente riapertura dopo 4 anni e un'inchiesta della magistratura del Teatro Grande. Europa 24 notte. Le agitazioni sindacali sono state sospese, i cancelli degli scavi sono stati riaperti ed è stato inaugurato dopo 4 anni di inagibilità il Gran Teatro. Tutte buone notizie quelle che oggi arrivano da Pompei, il sito archeologico più importante al mondo, al centro da anni di vari tormenti, prima i cedimenti, poi i furti, ancora gli scioperi selvaggi, ma soprattutto il grande progetto di restauro finanziato dalla Commissione Europea e che per lo più è rimasto sulla carta. L'Europa ha infatti stanziato nel 2012 per la ristrutturazione del sito ben 105 milioni di euro da spendere entro il 2015 e che se non verranno spesi dovranno essere restituiti, un finanziamento gestito dalle autorità italiane destinato a lavori strutturali con l'obiettivo della preservazione, del mantenimento e del miglioramento del sito, un contributo che ha fatto seguito ad una richiesta dell'Italia dopo i danni provocati dalle piogge torrenziali di fine ottobre 2011 e che si sono aggiunti ai danni causati dalle violente tempeste del 2010. Ma di questi 105 milioni di euro stanziati per riportare all'antico splendore Pompei ne sono stati spesi poco più di 500.000, una goccia nel mare. Il motivo? Lungaggini burocratiche, lo scarso coordinamento tra le strutture, continui ricorsi alla magistratura da parte delle aziende che perdono le gare d'appalto e che così bloccano l'assegnazione dei lavori. Insomma, un progetto rimasto in gran parte lettera morta, mentre il sito continua a perdere pezzi a causa della scarsa manutenzione. Il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Io mi auguro che non si perdano, perdiamo già troppi di fondi europei in Italia, mi auguro che almeno quelli per Pompei, che sono un patrimonio dell'umanità, vengano utilizzati nel modo migliore. Sono stato in visita a Pompei qualche settimana fa, è un patrimonio incredibile, amato da tutti, che deve essere valorizzato, è un'altra vetrina per attirare turisti in Italia e in Europa. E intanto anche la nuova amministrazione comunale promette: non faremo sconti a nessuno, così il nuovo sindaco di Pompei Ferdinando Uliano. Quello che farò con la mia amministrazione e in modo particolare con l'assessorato al turismo e un assessorato ad hoc per la tutela dei beni archeologici e ambientali data all'ex procuratore Marmo, saremo molto attenti verso i problemi di conservazione e i problemi gestionali che riguardavano e riguardano l'area archeologici. Da oggi il Comune non farà sconti a nessuno, le sorti di Pompei, scavi, ci sono particolarmente a cuore. Ve lo dico da cittadino e da primo cittadino. Il Comune vuole dare il proprio contributo perché non dobbiamo avere solo gli oneri di offrire dei servizi, ma dobbiamo condividere un percorso insieme. Ed ecco che stiamo lavorando con gli assessorati che si riguardano proprio questo settore alla legge speciale per Pompei, così come è successo per Roma Capitale, Firenze, Venezia, la stessa Pietralcina, una piccola cittadina che grazie a un santo è riuscito ad avere una legge speciale. Quindi stiamo lavorando a una delibera che sarà presentata sia in regione che al governo centrale e al ministero, quindi dei beni culturali. In questo modo ci potrebbe anche essere un miglior coordinamento per utilizzare questi fondi. Ci deve essere, dobbiamo fare presto, perché non si deve parlare più negativamente. Pompei è patrimonio dell'umanità, non è patrimonio nostro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Siamo lasciati con Pompei, patrimonio dell'Europa e del mondo. Che patrimonio sarà la nazionale, Dario Ricci, dal Brasile direttamente? Ciao Dario. Eccoci qua da Natale, Roberta. Beh, si sa, la nazionale è patrimonio di tutti, quindi speriamo anche che ci dia qualche soddisfazione in campo. E domani la giornata decisiva, oggi ha parlato Cesare Prandelli, ha parlato Andrea Pirlo, c'è un misto come atmosfera di paura e fiducia, siamo divisi tra ottimisti e pessimisti, qui vedremo se gli azzurri sapranno dare le risposte giuste in campo con l'Uruguay, basta un pari per per qualificarci, ma non sarà certo facile contro Cavani, Suarez e compagni. Dobbiamo sentirlo Prandelli, che oggi ha fatto proprio un appello patriottico proprio agli azzurri e a tutti quanti. Dai, sentiamo questa esortazione. Noi ultimamente abbiamo la voglia di andare sempre sulla tattica, ma diventa controproducente nel momento che mancano tutti gli altri requisiti. Domani sarà una partita dove caratterialmente, agonisticamente, psicologicamente, su ogni pallone devi essere capace, determinato come lo saranno loro. Loro hanno un senso patriottico che noi non abbiamo come nazione. Quindi adesso da tutti si aspettano da noi e dobbiamo essere pronti per questo. Noi siamo qui anche per rappresentare l'Italia da questo punto di vista. E se dovessimo perdere un contrasto è perché sono stati più bravi di noi, non perché non siamo andati a contrastare. Poi l'aspetto tattico degli esterni e non esterni viene in secondo piano sempre, la tattica. Se non metti in campo questi requisiti diventa difficile tutto. Avete sentito quindi Prandelli. Dario Ricci, tu dicevi divisi tra ottimisti e pessimisti, tu? Diciamo io l'ottimismo della speranza, dell'incoscienza brava, dell'incoscienza. Volevi parodiare Gramsci, brava. Però ha fatto vedere spesso un buon calcio, quindi perché domani, che tra l'altro c'è Immobile e Balotelli, perché non dovremmo rivederlo? Quindi io sono fiducioso. Bene, allora lasciamoci con questa fiducia di Ricci e vediamo se sarà stato fiducioso, buon proposito oppure no. Domani, Dario, ci sentiamo poi dopo l'esito praticamente della partita, per quando ci sentiamo qui Effetto Notte. Noi ci sentiamo tra pochissimo.